io sto calmo, ma io sto calmo, è che io ti ascolto tutte le sere e a volte io faccio il camionista, se ti avrei mezzo alle mani a polpette ti farei a te, tu hai curato becchino da parenzo, eh? La Zanzara. Siamo da nevrosi, siamo affetti, spariamo dei sorrisi, degli alibi perfetti, colletti inamidati dai trascorsi assai sospetti. Siamo tutti matti, fuori ogni misura, in fondo a ogni promessa l'incertezza e la paura. Fragili ed inetti, bugiardi trasformisti, regalaci un computer se non vuoi vederci tristi. Siamo tutti matti! Caro Parenzo, durante il weekend innanzitutto abbiamo appreso che gli UFO sono tra noi. Sì. Questo l'abbiamo capito, l'ha detto il che è il primo ministro, no? Il primo ministro russo Medvedev, dunque siamo tutti. No, come l'ha pronunciato male, signor Cruciani? Com'è che si dice, scusami? Medvedev. Sei sicuro? Beh, certo, fatto russo io. Decidiamo che destino avremo mai. Ma tu sei preoccupato per gli alieni? No, io sono preoccupato per lo spread. Lei, Cruciani, si rende conto di cosa sta accadendo? Oh no, lei parla di parte con gli alieni. Gli alieni! Poi c'è la notizia che Giannino si candida, ecco, che non è una notizia da poco. Ancora non si è capito se si candida direttamente, da solo, insieme a qualche altro partito, ma sentiamolo stamattina contro Berlusconi e la sua ricandidatura e tutti quelli del PDL che gli vanno dietro, dice Giannino, via. Quello che mi colpisce e che secondo me ha del caso clinico è il silenzio che poi è seguito da uno sbattere di tacchi dell'intero consesso della sua formazione politica, che dopo un anno ancora non aveva neanche mostrato qualche segno di inizio di un bilancio da chiudere di un periodo di 18 anni e che adesso si ritrova tutti in campo a dire Silvio. Io penso che sia qualche cosa mai vista, una cosa simile nella storia italiana. Ripeto, persino il regime ha avuto il Gran Consiglio. Cosa ti è piaciuto di più delle dichiarazioni di Berlusconi del fine settimana davanti alla pizzeria, dentro la pizzeria di Milano, non mi ricordo, a braccetto con la signora Pascale? Cosa ti è piaciuto di più? A me è piaciuto di più questa qua. Gli italiani mi considerano guida, conducator, che è come Ceausescu, ti ricordi? Mancanza. Sì, esatto. Sentiamo. Esatto. Poi una carriera imprenditoriale che naturalmente mi porta ad essere considerato dagli italiani come un conducator, una guida di cui fidarsi, ecco. E quindi io credo che sarebbe stato una mancanza mia di responsabilità se non mi fossi con grande sacrificio personale riproposto. Conducator. Ma guarda, poi ci sono c'è tempo, stai calmo, c'è tempo. Sì, io sono carichissimo. Renzi, sulla vicenda Rubbia, Renzi, porta adesso sentiamo tutto. Renzi sulla Boccassini, porte aperte. Ho capito, Renzi, porte aperte. La Boccassini ha sbagliato, te lo dico subito, ha sbagliato alla grande. No, ha sbagliato alla grande. Che gli interessa a lei il motivo per cui uno vuole allungare, se è vero, poi un processo. Cosa interessa alla Boccassini? No, ma spiegami, ma cosa devi spiegare, allora sentiamo subito la Boccassini. Non transigo, guarda, non voglio neanche scherzare su questo, non transigo. Non scherzare. Si rompe un'amicizia su questo, Ma chi se ne frega? La nostra, si rompe un'amicizia su questo, io non transigo. Mi consenta di non credere a quello che ci viene prospettato, in udienza. Quindi questo è da interpretare come non volere e dilatare i tempi del processo per arrivare in campagna elettorale. Questo io è quello che questo penso. Non è possibile. Sì. Non è possibile. E poi c'è la risposta di Ghedini, vabbè, non ce ne frega niente della diatriba. Io dico una cosa. Può darsi che sia, può darsi, sì, d'accordo, può darsi che il motivo sia questo. Può darsi che il motivo sia questo. Ma aspetta, non lo so, lo sai tu? Lo sai, può tu? Darsi. Aspetta, stai calmo. Ma dove vivi? Aspetta, oddio mio, già sei esaltato dall'antiberlusconismo. Sei proprio sei partito. Vivi? Sei già partito, lancia il resta. Allora, mettiamo che sia questo. Tocca al pubblico ministero di un processo dire che uno vuole allungare i tempi per la campagna elettorale? Tocca al pubblico ministero di un processo, secondo te? Ma no, certo, dillo. Assolutamente sì, siccome benissimo, lei è bravo, parte, basta, in quel processo, poi ne parliamo. Perché lei è parte. Ma che processo, c'entra? Poi cosa c'è il c'entra? Il giudicante che dovrà giudicare. Vabbè, vai. Lei è parte. Che volevo far ascoltare sempre Berlusconi su Renzi, poi ovviamente Renzi ha risposto dicendo che le persone non si comprano, già due volte ho parlato col presidente Berlusconi di questo. Di una cosa solo le posso dire, che se Renzi volesse venire con noi, noi a tutti i liberali teniamo le porte aperte. Compresi a quelle labbra ancora appesi, questa guerra della marcia esaurirà. Uomini e fantasia. Che c'è da far ascoltare ancora? Beh, insomma, una serie di commentatori anti-berlusconiani, perché naturalmente la candidatura di Berlusconi ha riattizzato, no? Ha dato fuoco alle polveri. Buon compagni, manderei la Sant'Anché a Guantanamo. Ho un'altra idea per, cioè? Per l'onorevole Sant'Anché. Se dipendesse da me, ma con simpatia lo dico con... Ma certo. La manderei a Guantanamo, vestita da arancione. Una cosa vestita da arancione, con clima bello lì. Con ingroia. Questa è la parola distensiva. Mi manderebbe sì, con ingroia. Sì, no. Sai sì, che no. Invece io vedrei benissimo lei con ingroia. Io non mi vedo benissimo là con ingroia. Dai. Bisognerebbe dire alla Sant'Anché che in Bravo. Realtà quella è Guatemala, non Guantanamo. Ecco, magari, perché Guantanamo è a Cuba, diciamo. Magari ha capito male. Poi Aldo Busi, ma non è la prima volta che il signor Busi che scoppia contro Berlusconi, sentiamolo. Ieri è in onda. Cioè anche i Peter Pan invecchiano e non c'è niente di più triste e squallido di un bambino vecchio. Cioè va fuori dalle palle, va via, ce l'avevi detto, lascia, abbandona, va via. E infine, con grandi polemiche che sono iniziate in casa Rai, caro Parenzo, la Littizzetto da Fazio. Ma io credo che su questa cosa qui noi la pensiamo più o meno allo stesso modo, La Littizzetto da Fazio, risentiamo. Abbiamo tirato la cinghia, Monti ci ha messo tutte ste supposte una per una come le cartucce della Cerbottana, adesso torna Berlo, sale lo spread, io... Non dico un pudore che è un sentimento antico, ma una pragmatica sensazione di aver rotto il cazzo. No, non c'è. È pazza. Berlusconi avrebbe rotto il C, avrebbe rotto il cazzo. Insomma, questo è quello che dice, anche se interrotta proprio sul più bello. Stupendo. Da Fabio Fazio, ed è con noi l'arrabbiatissimo Antonio Verro, PDL, Consiglio di Amministrazione della Rai. Buonasera, caro Verro. Buonasera a tutti. Come andiamo? Scusi un attimo, Verro, io voglio capire ma una è cosa. Verro, scusami. Sì, no, dimmi. Ma è Verro, sì. È il consigliere d'amministrazione della Rai in quota di Forza Italia, PDL, no? Ma Forza Italia non c'è, forse tornerà. Beh, PDL. Cioè, lei sarebbe contento se tornasse no. Forza Italia, signor Verro? Ma no, guardi, parliamo di Rai, cioè, voglio dire, ma le mie simpatie politiche ovviamente sono note, Parenzo giustamente le sottolinea, eccetera. Sì. Però io sono qui in veste di consigliere d'amministrazione della Rai. Vabbè, parliamo che c'entra? Solo di questo. No, come che c'entra? Parliamo di del parliamo del Littizzetto, giorno, vabbè. Per quanto riguarda l'azienda. Allora, scusi. La cosa singolare è che lui era sparito negli ultimi mesi. Sì. C'erano i tecnici. Lui era sparito perché era sparito. Sparito, era il consigliere d'amministrazione della Rai. Che c'entra? Sparito. Erano silenti. Sparito adesso per te. È tornato Berlusconi e torna a Verlo. È meraviglioso. Posso dire una cosa? Sì. Il fatto che voi mi chiamiate alla zanzara e il fatto che, come spesso mi capita, sono in dissenso con Parenzo, vuol dire che sono nel giusto. Allora, la verità vera è che durante la gestione Monti è la stampa che si è occupata poco della Rai, pur avendo mille cose di cui parlare della Rai. Vabbè, io invito l'amico Parenzo ad andare a leggersi anche le mie agenzie delle settimane o dei mesi scorsi che purtroppo non sono state riprese. Vabbè, Verro, allora il punto fondamentale è questo. A proposito, risentendo o rivedendo, lei l'avrà fatto sicuramente quel momento, Fazio, diciamo, dà l'impressione di non sapere. Secondo lei erano d'accordo? Io spero spero di no. No, spera, sì o no? Secondo lei? No, non lo so, onestamente. Io non ho parlato con nessuno, quindi ho visto la telespettatore stamattina, anzi ho rivisto la parte incriminata della trasmissione. Sì. Incriminata, incriminata dal mio punto di vista, sì, certo. Nel senso che posso dire, dal mio punto di vista, di tutta una serie di associazioni che si sono lamentate dicendo che in prima serata a Rai 3 queste robe qui non si possono fare, cioè non si può pronunciare la parola Berlusconi. No, la parola cazzo, questo è il punto. Io non avevo capito, David, non fare finta di non capire. Cioè, non fare... Allora, io voglio capire che cosa si può dire o cosa non si può. Se avesse detto, che ne so, ha rotto il C, sarebbe andata bene? Posso dire una cosa? Sì. Io le dichiarazioni che ho fatto di critica da Letizetto le avrei fatte lo stesso se si fosse trattato di Bersani o di Vendola. Perché il problema è il rispetto che noi come azienda di servizio pubblico dobbiamo avere nei confronti della gente che paga il canone. Siccome la gente che paga il canone a quell'ora, che siamo in fascia protetta, vuole la satira, vuole l'ironia, vuole la volgarità, vuole l'insulto e la volgarità. Ecco perché io umilmente mi sono permesso di dissentire da quelle frasi che sono state dette. Cioè, allora, il punto è, secondo lei la Letizia è una militante politica da questo punto di vista? Ma questo lo lascio. No, a lei lo giudichi. Voglio dire, allora non capisco perché io ho delle simpatie politiche che dichiaro e la Letizetto non ha simpatie politiche. No, e ce l'ha. Posso dire, per chi vota la Letizetto non lo so e non mi interessa neanche. Sì. Però noto, vedo che, come dire, l'ardore che mette nella critica verso il centrodestra è, come dire, particolarmente intensa. Ma magari, scusi un attimo, sì, però scusi, magari ci sono frasi, personaggi nel centrodestra che stimolano di più l'ironia della Letizetto rispetto alla... È sempre stato così, Berro? No, cioè, sono d'accordo con lei, ma voglio dire, un conto è l'ironia, far ridere, la satira, sulla quale, guardi, io posso dire una cosa, apertissimo, io sono il primo che ride anche dei nostri difetti. Ma in questo caso, invece... Ma in questo caso è un insulto gratuito, è una volgarità gratuita, che non capisco cosa c'è. Ha insultato Berlusconi, dice lei. Prego? Ha insultato Berlusconi con la parola cazzo, questo è il punto. Ha insultato Berlusconi, ma posso dire che non tanto ha insultato Berlusconi, ma ha insultato tutte le persone che si riconoscono in Berlusconi e che sono magari quelli che pagano il canone, e non per sentire della ironia, della satira, sì, ma degli insulti no. Questo, ripeto, andatevi a leggere. Per cui lei dice non far ridere, no, ma l'abbiamo letto, non far ridere, ma è semplice, ma è un gesto di militanza politica. Quando uno dice Berlusconi ha rotto il cazzo, adesso per dirlo apertamente, questo non è satira, ma è semplicemente una posizione politica, giusto? È una volgarità. Allora, volgarità è in più, appunto, è una volgarità in più. Detto questo, poi che la Letizetto sia, come dire, orientata dall'altra parte, credo che sia cosa nota a tutti. Ma voglio dire, ma è illegittimo, cioè a me non me ne frega niente la Letizetto che simpatia. Ma non è che ha sentito profumo di Bersani, non è che si sente già profumo di Bersani, no? Questo è il punto. E lei dice che c'è una captatio benevolentia nell'aria per cercare... Non lo so, io lo chiedo a lei. Guardi, posso dire una cosa? Lo dice lei, siccome io ho grandissima stima delle sue doti... No, lo chiedo, ma non mi attribuisca la cosa a me, è vero, scusi, lo dica. Alla Rai si sente profumo di Bersani, questo... puzza! Sì o no? Diciamo che è probabile. Beh, è probabile, su, non faccia... Cioè, sento odore di Bersani, questo, da questa cosa, o no? Beh, cioè, diciamo che c'è una corsa, come dire, a distanziarsi dai tecnici, dal governo tecnico, eccetera, e a posizionarsi, diciamo, nella politica. Ma è più puzza o profumo di Bersani? No, beh, questo no. Io posso dire una cosa, siccome sono convinto che la politica è una cosa buona, giusta e nobile, che politica vuol dire perseguire... Anche alla Rai, purtroppo. No, allora... Allora, distinguiamo. Ah, si sente odore di sigaro. Si sente odore di sigaro. Per me, la politica, come la intendo io, è la politica con la P maiuscola che persegue gli interessi generali. E lo fa o lo dovrebbe fare anche in azienda. Cioè, io quello che vorrei evitare è che si butti via il bambino con l'acqua sporca. Cioè, cerchiamo di fare una battaglia non per eliminare la politica. Matti, siamo tutti stimati. Allora, 800 24 00 24, è esploso il caso Littizzetto alla Rai per quello che è successo ieri, non mi ricordo che era sabato, Parenzo, quando era? Ieri, quando domenica. Era? Ah, domenica, sì. Domenica. Ah, è vero che sabato non c'è più. Scusi un attimo, Verro, io le chiedo una cosa, ma siccome Sanremo, dove ci sarà anche la Littizzetto insieme a Fazio, è la prima... Detto nel pensiero. Allora, no, allora, non sarebbe il caso, e le elezioni saranno sicuramente dopo, da quello che sembra oggi da alcune dichiarazioni del Ministro degli Interni, non sarebbe il caso, secondo lei, sempre di sostituire la Littizzetto, esatto, con di Bondi. Eliminare e la mettere Bondi al posto della Littizzetto, la presenza, adesso al di là dell'ironia di Parenzo che dice Bondi al posto della Littizzetto, vabbè, lasciamo perdere Parenzo, però non sarebbe il caso, non sarebbe più opportuno, come dire, eliminare questa presenza, insomma è una figura lì dell'anti-berlusconismo presente a Sanremo, sì, secondo lei? Posso dire una cosa? Io preferisco la Littizzetto a Sanremo che non Parenzo a Sanremo, ma anche Bondi a Sanremo, anche Bondi, anche Bondi, però. Ma posso dire Bondi c'entra poco, perché Bondi fa il politico di mestiere. Beh, oddio. Parenzo invece Parenzo fa un po' un misto tra il giornalismo e spettacolo, quindi secondo me ha delle aspirazioni segrete per andare a Sanremo, ma io mi spazzerò con tutto me stesso per la Littizzetto, per la Littizzetto. No, io adesso a parte, no, ma a parte gli scherzi, ma lei veramente pensa che sia un problema la Littizzetto a Sanremo? Beh, io non è che penso che la Littizzetto sia... Allora, innanzitutto io ho una grandissima stima professionale... E vabbè, d'accordo. Conto sull'equilibrio di Fazio, per cui spero di tanto... Fazio, sì. Di Fazio, spero tanto che Fazio faccia capire alla Littizzetto che ironia è un conto, volgarità è un altro, e che in piena campagna elettorale, con questi toni accesi, insomma, io credo che bisogna essere calmi. Cioè, deve far calmare la Littizzetto a Sanremo. Secondo me, io penso proprio di sì. Sì, però detto scusi, questo, il secondo passo, non sarebbe il caso, lo domando al Consiglio d'amministrazione, eccetera, di addirittura pensare a un'esclusione della Littizzetto da Sanremo? Guardi, io non amo creare vittime. Però? Non amo creare vittime. Però? Però vorrei avere la tranquillità di Fazio che mi dica che l'azienda può stare tranquilla. Che è sedata. Cioè, lei comunque è preoccupato per questa cosa qua, di Sanremo prima delle elezioni? Cioè, sono preoccupato anche della concomitanza delle due cose. Beh, certo, cose. Questo è chiaro, quindi... a prescindere da Sanremo, il problema sono le elezioni, non è se ci fosse un Sanremo... No, sono preoccupato della concomitanza dei due eventi, Sanremo con una Littizzetto a ruota libera... Esatto. Certo. Beh, magari però si può fare un controllo sui testi, no? No. Si potrebbe fare un controllo sui testi, perché no? Questo lo facevano negli ambienti, sì, negli stati che forse David frequentava bene, visto che non appartiene alla mia cultura. Non appartiene. Scusi Verro, ma Berlusconi pare che chieda lo stesso spazio dato al PD durante le primarie anche per lui alla Rai, sì, è giusto secondo lei o no? Guardi, io non lo so, onestamente lo apprendo in questo momento, posso dire, non mi stupisce. Cioè, sarebbe corretto secondo lei? Beh, insomma, voglio dire, nella logica della par condicio, nella logica, sì, della ripartizione degli spazi che il servizio pubblico deve garantire, sì, non avendo deciso il PD di non fare le primarie, fare, sì, le primarie, credo che abbia, tra virgolette, diritto ad avere più o meno gli stessi spazi. Una sorta di risarcimento per non aver fatto le primarie. No, detto questo, no, non la mettiamo su questo piano. Lei così dice, gli stessi spazi. È una questione di rispetto delle proporzioni in campo. Ho capito. Questo. Scusi un attimo, un'altra cosa, Verro, ma lei da tifoso milanista, tu sapevi Parenzo che è milanista, Verro, no? Sì, super certo, tifoso. Lo conosco da 15 anni tutto io. Di me. Allora, scusi Verro, lei da tifoso milanista, da berlusconiano convinto, mi sembra di capire. No, ancora berlusconiano, sai, ormai i berlusconiani alcuni fanno finta di non esserlo stati, eccetera, eccetera. Comunque no, lei è ancora berlusconiano. Deve essere coerenti nella vita. Allora, lei non spera che Berlusconi, proprio per la campagna elettorale, metta a segno un bel colpo, che ne so, Balotelli, per esempio, no? Posso dire una cosa? Sì. Già il più bel colpo lui l'ha fatto riavvicinandosi alla squadra. È bastato che lui facesse delle periodiche di... Però lei sarebbe contento. Ma no, a me basta che... Posso dire, a me Balotelli o Balotolli, non mi interessa. Non le interessa. Ma lei è contento della ricandidatura? Lei è contento della ricandidatura di Berlusconi? Mi dica la verità. Guardi, quello che noto, leggendo i giornali, sentendo gli ispezioni, sì, delle dichiarazioni, cioè, che la candidatura di Berlusconi fa paura, no? Perché e questo la fa godere, questo la fa godere moltissimo. Certo, questo perché vuol dire che è in grado di ribaltare i pronostici. Scusi un attimo, io però voglio chiedere un'ultima cosa. Pare che una signora che si chiama Maggioni, che ha condotto... Così non l'ho capito, pare? Una signora che si chiama Maggioni, uso un eufemismo, chiaramente, ma la conosco benissimo, bene, sia stata limitata nella corsa alla direzione del TG1 dal fatto di avere fatto un comunicato pro Minzolini. Ora, questa cosa qui, secondo lei, è una cosa grave o no? Gravissima. perché cioè lei faceva il tifo per la Maggioni? Io facevo il tifo spudorato per la per Monica Maggioni, perché è brava, perché è giovane, sì, e perché è donna, no? E la cosa grave qual è? La cosa grave qual è? La cosa grave, se è vero, io non, onestamente detto non però, lo so, insomma, se lei però lo dice. È una voce che ho sentito, sì, se è vero che è stata esclusa dalla candidatura della guida al TG1 per il semplice fatto che lei si era schierata a favore di Minzolini, beh, questa è una cosa intollerabile e profondamente ingiusta. Capito, Parenzo? Sì, sì, ho capito, mi pare che qui il ritorno del Cavaliere stia scatenando tutti quanti, ma sono sempre bello, sarà molto divertente. Però posso dire una cosa, con tutto l'affetto che ho per Parenzo, che sì, conosco da una vita, cioè piantiamola di fare la lotta delle tifoserie, siccome è sceso in campo Berlusconi ci dividiamo di chi è a favore di Berlusconi e chi è contro. Ma infatti, parliamo dei problemi dell'azienda, in questo caso devo chiudere, dei problemi del paese. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me. E balli un twist, e balli un twist, la zanzara twist. Una volta a polpaccio e poi all'altro. Sei ancora a casa, e poi all'altro. Prendila, schiacciala, schiacciala, ti ho beccato. Eccoci qui, 800 24 00 24, la zanzara con l'ancora qui siamo di Dell'Utri, che c'è? Che stai facendo, Parenzo? Cosa stai cosa no, diavolo dire, stai siamo facendo? Tutti, siamo tutti litizzetto. Mi piace questa Rai, tutta eccitata dal ritorno di Berlusconi. Mi piace questa Rai con il signor Ma sarai Berro. Tutto tu litizzetto. Sarai tutto tu Io litizzetto. Io sto con la litizzetto, lo dico agli amici della Rai, al signor Verro, a questi simpatici signori, simpaticissimi. Siamo tutti litizzetto oggi. Ai, ai, ti ha beccato, ai, ai, ti ha beccato. Come ti stendi nel letto, quel noioso insetto. Che prego. Allora, la Boccassini da risentire, la Boccassini. Che bisogno c'era di dire, di pronunciare la parola campagna elettorale? Uno può attaccare la volontà di dilazione di un processo, di allungare un processo, senza citare la campagna elettorale. Che gliene frega la Boccassini della campagna elettorale? Scusa. Perché è un PM. Ma che importa della campagna elettorale? Che gli importa a lei della campagna elettorale? Perché dovrebbe essere interessata? Perché è evidente cosa? È un quello. Ragionamento politico. È un ragionamento politico che non ha nulla a che fare con... Ma scusa, che gliene frega delle ragioni ma o meno? Ma tu sei scatenato. Vabbè, proprio. Ma tu non riesci ad ammettere nemmeno l'evidenza. Nemmeno l'evidenza. Boccassini. Mi consenta di non credere a quello che ci viene prospettato, di non credere a quello che ci viene prospettato in udienza. Quindi questo è da interpretare come non volere e dilatare i tempi del processo per arrivare in campagna elettorale. Questo io è quello che questo penso. Non è possibile. Sì. Questo non è possibile. È possibile. È meglio parlarne prima. Di dilatare i tempi e di non credere anche alla collega, di non credere a noi. Allora, ovviamente, questo è un titolo del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Bufera sui mercati dopo l'addio di Monti al governo. Lo spread supera quota 360 punti. La borsa è in caduta. Allarme in Europa. Serve un'Italia forte e stabile. Avverte Bruxelles. Spagna teme il contagio. Giù PIL e produzione industriale. Monti, non drammatizzare le reazioni dei mercati, candidarmi per ora non considero la questione, ma attenti al populismo, sondaggio del TG3. Bersani, è meglio che il professore resti fuori dalla contesa, preoccupato da tempesta finanziaria, cancellieri verso il voto in febbraio. Berlusconi punta a un accordo con la Lega in Lombardia a livello nazionale, ma Zaia frena, mi risulta che andremo da soli alle politiche. Duro confronto, difesa dell'aula del processo, Rubi, la ragazza non si presenta, scintille tra il PM Boccassini, legale di Berlusconi. Due tragedie in poche ore, altre due donne uccise dai loro compagni a Genova e Caserta, 118 dall'inizio dell'anno, ormai una vera strage. Detto quello che ho detto sulla Boccassini, e qui lo confermo, che non c'era bisogno di evocare la questione campagna elettorale, perché alla Boccassini può anche non fregargliene nulla del perché Berlusconi vuole allungare il processo, non è di sua competenza. No, la Boccassini che è PM, cioè il processo è fatto di parti, mia, allora c'è, guarda, la difesa. Non riesci ad ammettere, ma non c'entra nulla il diritto penale. Ma perché non capisci? Non riesci a capire. Da una parte c'è una persona che si chiama avvocato. Fai il tuo sprologo contro Berlusconi, dai, forza. Da una parte c'è una persona che si chiama avvocato onorevole Nicola Ghedini, che la mattina scrive le leggi e il pomeriggio va in tribunale a difendere il suo assistito. Questo non c'entra nulla. Dall'altra parte c'è la pubblica accusa che è rappresentata da Ilda Boccassini, che è la pubblica accusa che deve sostenere una tesi, deve portare delle prove ed eventualmente può anche chiedere il proscioglimento dell'imputato. Forza, vai veloce. Dall'altra parte c'è il collegio giudicante. Allora, siccome lei è parte di quel processo, sottolinea e dice che il signor Silvio Berlusconi, in particolare la signora Ruby Rubacuori, non nipote di Mubarak, non si presenta, e siccome è un testimone del processo, è interesse della difesa quella di dilatarne i tempi. Benissimo, fino a qui ci siamo, ma infatti tu vedi che tu non hai pronunciato la parola. Ora, siccome ci sono, c'è cioè, un particolare, Berlusconi vuole andare alle elezioni anticipate. Ma questo che gliene frega la Boccassini? Ma che gliene frega la Boccassini? Ma che gliene importa la Boccassini di quello che fa Berlusconi? Se vuole candidarsi o non vuole candidarsi? Se vuole che ci sia oggi, anziché stare in Parlamento, era in aula. Vabbè, ma tu stai parlando di altro adesso, come al solito stai parlando di altro, perché siccome non hai capito quello che voglio dire io, non hai capito nulla di quello che voglio dire io. Come al solito sei partito con i soliti luoghi comuni anti-berlusconiani. Vabbè, ma d'altra parte, ma insomma, non è una novità. Io ho detto che molto probabilmente Berlusconi vuole ottenere, vuole candidarsi prima del processo o di una condanna. Su questo non ci sono dubbi. Dopodiché non lo può dire la Boccassini. Hai capito o no? Dove è scritto? Vabbè, dove arrivederci. Scritto? Dino dalla provincia di Treviso. Sì, pronto? Dica. Sì. Pronto? Dica. Pronto? Dica. No, dunque, niente. Niente, la sento male. Donato da Bari. Pronto? Dica, Donato. Buonasera, dottor Cusciani, dottor Parenzo. Volevo fare una riflessione personale sulla ridiscesa in campo di Berlusconi. Sì. Secondo me, in un primo momento, Berlusconi aveva effettivamente deciso di non presentarsi come messaggio cifrato ai giudici, vale a dire: io non mi presento, voi non mi condannate, mi lasciate stare. Vabbè, poi dopo l'esito dopo l'ultima condanna, chiaramente a mo' di dispetto ha deciso di riscendere in campo. Poi? E quindi, anche se questo non è effettivamente il problema, quanto capire come mai una parte del popolo italiano possa ancora votare un uomo e un partito che fino ad ora ha fatto solamente danno. Per me è un mistero. Comunque, Donato, c'è chi si vuole fare del male, si faccia del male. Nicola da Brindisi, buonasera. Sì, ciao Cruciani. Dica. Buonasera. Senta, io ho un paio di considerazioni. Voglio partire intanto. Scusi un attimo, Nicola, lei parla da Brindisi? Sì, ma non sono di Brindisi, capisce? No, per capire. È di Bergamo. No, Brescia, no, Parenzo. Dici cazzata raffica. Vabbè, Nicola, lei non chiama da Brindisi, mi pare chiaro. Insomma, comunque, vabbè, lasciamo perdere. Esatto. Brindisi, ma perché non vuole dire da dove chiama e come si chiama? Scusi. No, io mi chiamo Nicola e chiamo da Brindisi. Sì, mio nonno in carriola. Avanti, no, su. Giuro, vivo a Brindisi. Io, sì, veramente. Sì, sicuro, 100%. Ho fatto pure l'università a Bari, quindi, e conosco di persona il vostro Pinuccio. Vabbè, allora Nicola? No, allora, considerazione numero uno, molto veloce. A me Berlusconi fa venire la rogna. La rogna, sinceramente, sì. Mi fa venire la rogna pure quella parte di italiani che da 20 anni lo vota e che ora si lamenta di essere nella merda. Vabbè, poi? Vabbè, questa. Volevo aprire una parentesi. Questa sarebbe la genialata per cui lei ha chiamato, insomma. Ecco. Sì, no, una parentesi su quello che è successo oggi con la Boccassini. Sì. Tra l'altro stamattina ho pensato subito che Cruciani ne avrebbe parlato in radio stasera. No, però, ma che cosa strana. Io ho una sola paura. Che intuito che lei ha, Nicola. Genio questo. È vero, non poteva essere una... Mi sembra una cosa veramente geniale come cosa. No, vabbè, dai, non prendiamoci per il culo. No, la piglia proprio per il culo. Non è che non prendiamoci per il culo, la sto prendendo per il culo. No, però scherzi a parte, io ho pensato perché secondo me, soprattutto nel clima che stiamo vivendo oggi, la Boccassini ha fatto un errore tragico. Allora io la premessa di prima l'ho fatta proprio per dire che io sono totalmente d'accordo nel merito con quanto ha detto la Boccassini. Il problema è che tatticamente, intanto, lei non è la persona deputata a dirlo, è un magistrato e deve fare il magistrato, non deve fare politica. Poi? Io ho una paura che mi terrorizza. Non è che in questo modo la Boccassini ha platealmente dimostrato che la sua è una battaglia personale, politica contro Silvio Berlusconi e non una battaglia di giustizia, diciamo, e non un modo per bene, fare grazie giustizia. Nicola. Mauro da Roma, buonasera. Salve, buonasera Parenzo, vi seguo sempre da Parigi, però ora che sono a Roma posso dire la mia. Vada. Volevo dire la mia sulla discesa in campo di Berlusconi. La sua dire... solidarietà, altro, ma non c'è bisogno di essere solidarietà. Non ho capito. Lei tragica, perché ne esonerà lo spettacolo, ci divertiremo come i pazzi, sarà una meraviglia, uno spettacolo. E soprattutto, cioè, pensiamo, Berlusconi, Grillo, ma la vera tragedia è se va a potere Bersani con D'Alema, con Bindi, i soliti dinosauri, la solita gente. E poi basta con sta retorica, la Littizzetto, Telese, tutti i giornali europei. Se la gente vuole cambiare, non voti Berlusconi e quindi risponda al momento del voto. Ma su questo non c'è dubbio. Grazie Mauro. Gianni da Milano, buonasera. Buonasera. Vada. Niente, io il mio pensiero era che comunque il padrone di Mediaset, mezzo padrone della RAI, il capo del governo si può permettere di dire che chi vota a sinistra è un coglione. Se la Littizzetto dice che ha rotto il cazzo, è una cosa detta in modo ineducato e volgare. Mi sembra un assurdo questo tipo di rapporto. Sì, la differenza no? è che quello fa il politico, la Littizzetto no. E quello fa il politico, appunto, perché è un politico che anche capo. Vabbè, lasciamo governo, perdere, ma non sto dicendo che ha fatto bene. Cioè, io sto dicendo che secondo Vero, guardi che per me la Littizzetto può dire quello che vuole, in ogni sede, in ogni consesso. Può dire esattamente quello che vuole, anzi, può dire pure peggio. Forse ha detto quello che tanti pensano. Vogliamo vivere noi. La dignità è un diritto. Io ancora oggi ho scritto al presidente dell'Impigi che il fondo pensioni, i miei soldi, va bene, li posso avere fra 7 anni e andate a fanculo tutti. Questa è la verità. Ah, Emilio, scusa, vi avete rotto i coglioni, voi compreso. Ma noi no. Voi avete rotto i coglioni. Ma chi ti ha scritto queste cose? L'Espresso. Mi dicono l'anticipazione dell'Espresso, ma vada a fanculo. L'Espresso è chi fa da capofila all'Espresso, che Berlusconi mi avrebbe dato 800.000 euro. Sì, ma così quale hanno... cazzo di dirmi 400.000 euro? Vogliamo vivere noi. Io ancora oggi ho scritto al presidente dell'Impigi di liquidarmi il mio fondo pensioni. Quanti soldi deve avere dall'Impigi? Ma quelli che sono solo porca la puttana, andata a fanculo. No Emilio, scusa, ma perché si è arrabbiato con loro? Rotti i coglioni, siete delle merde. Andate a cercare nel mio privato. Ma noi abbiamo Ma noi che c'entriamo? Allora, con questo io ho fatto fare i conti di cosa prenderò a dicembre. Fra 13esimo stipendio, 15.000 euro. Ho rubato! Ma che è successo? Ma scusa, ma andate a fanculo! No, scusa. Ma noi che c'entriamo noi? Tutti voi siete banda dei figli di buona donna che avete organizzato il tutto per tentare di distruggermi anche fisicamente. Avete capito? Oggi dice che l'Espresso che Berlusconi mi ha dato 800.000 euro. L'Espresso. Mandate a fare in culo! Ma querela lì! Mandate a fare in culo! Ma noi! Siete delle merde! Ma Emilio, ma perché siamo noi? Ma noi chi c'entriamo noi? Abbassato, che ha fatto? Ah, sono cavoli vostri! Vogliamo vivere noi. No. La dignità è un diritto. Perché no, poi la dignità è un diritto. Il commento di Annarella è la cosa più bella. Non sono cavoli vostri. È un valore che vince, lo sai. Massimo da Napoli, 800 24 00. Stai zitto che sto parlando. 800 24 00 24. E che cavolo con sti tempi. Massimo da Napoli, buonasera. Dica. Secondo me le parole della Boccassini sulla campagna elettorale di Berlusconi si riferivano al fatto che forse Berlusconi, una volta in campagna elettorale, invoca il legittimo impedimento per il fatto che lui è candidato. Forse bah, quello voleva dire. Non credo, guardi. Penso proprio di sì, perché altrimenti... Ma comunque, si può invocare il legittimo impedimento? Sì o no? È previsto dalle norme? Sì o no? Sì, no, dico, ma la cosa in sé avrebbe non avrebbe più un contenuto politico, come ha detto lei, ma avrebbe un contenuto giuridico. Ma quale contenuto giuridico? Non c'è certo, nessun se contenuto giuridico. Se tu arrivi alla campagna elettorale e poi invochi il legittimo impedimento, è un fatto tecnico, non è un fatto politico. No, guardi, la cosa è questa. La Boccassini probabilmente ha ragione, fa il suo mestiere, ma secondo me è un errore dire Ruby non è venuta oggi e dunque Berlusconi sta cercando di allungare il processo perché vuole... Andare in campagna elettorale perché in senza una condanna, primo perché fa capire che ci potrebbe essere una condanna innanzitutto, comunque Massimo, no, secondo me è un errore evocare la parola campagna elettorale. Vabbè, il motivo per cui Berlusconi se è vero questo vuole allungare il processo, il motivo non spetta alla Boccassini indagarlo. Giancarlo da Vercelli, secondo me Beh, lei deve fare di tutto per cercare di Dica. Io volevo intervenire sull'argomento della Littizzetto, perché io l'ho sentita ieri e non mi sembra abbia inveito contro Berlusconi, ha semplicemente inveito contro quello che lui fa. Cioè, prima dice una cosa, poi ne dice l'opposto, poi non si capisce mai cosa fa. Comunque era contro Berlusconi, o quello che dice o quello che non dice Berlusconi. Quello che dice, benissimo. Certo, ma non l'ha insultato. Cosa dice quel consigliere del PDL che ce l'hanno tutti con Berlusconi? Voglio dire, se le tira anche. No, veramente non ha detto ce l'hanno tutti con Berlusconi, ha detto che la Littizzetto se l'è presa con Berlusconi dicendo non deve rompere il cazzo, questo è il punto. Ma ho capito, ma lei è d'accordo con la Littizzetto? Ma di che stiamo parlando? Non stiamo parlando se lei è d'accordo o no con la Littizzetto. Giancarlo, ma possibile che lei non capisce? Detto questo, poi io sono contro quello che ha detto Verro. Secondo me ha sbagliato a intervenire su questa cosa la Littizzetto. La Littizzetto può fare quello che vuole. Dopodiché sul linguaggio si può discutere fino all'infinito. Per me comunque la parola cazzo non mi pare un problema particolare. Secondo, per quello che mi riguarda, poi. Grazie, Riccardo da Roma. Pronto? Dica. Senta, allora io innanzitutto premetto che io ho sempre votato e continuerò a votare fino alla morte Berlusconi. Finalmente, sì, almeno fino alla morte, detto, mi raccomando, fino alla morte. Così in trasmissione c'è almeno uno, ha fatto chiamare almeno uno che lo ha votato. Ha fatto chiamare, ha votato lei, ha chiamato lei. È una fila dei comunisti che non, mamma mia, uno schifo. Innanzitutto non si è mai visto in nessun paese occidentale. Ma dove stanno sti comunisti? Che un pubblico ministero si permette di dire no perché così, se no lui si candida, se no vuole farlo prima delle elezioni, ma sono cazzi tuoi, ma tu in America neanche ti farebbero lavorare, stronza, perché in America... Stia tranquillo, non America, insulti le persone. In America hanno il 95%, lo so perché ci ho vissuto, il 95% dei pubblici, delle sentenze, il 95% dei processi si devono concludere con una condanna, altrimenti al pubblico ministero lo fanno fuori. E allora, ma che cosa questo esilio studioso di diritto? Che cosa succede in America? Che non ci vanno proprio a processo se non hanno le prove, la pistola fumante, le confessioni, le testimonianze. Qui stanno cercando di inchiodare un vecchio di 70 anni da anni dicendo che forse ha toccato il culo a quella, forse era minorenne, no, però ha telefonato in questura alla nipote di Mubarak, quando lei stessa ha detto e ripetuto che lei non ci ha fatto vabbè, niente. Non stia, non rifaccia il processo in due o tre minuti. Ma non è che rifaccia il processo, è come il fatto dello spread, con le stronzate a cui chiede la gente, lo spread, Berlusconi ha scorreggiato 20 punti di spread, ma scusate, ma a luglio, no? A luglio, il cameriere della Merkel, ma lei le pagano per dire se stronzate? Non c'era a 500 punti lo spread da luglio? E i giornali intanto niente, Berlusconi dice niente. Offensive fuori luogo le reazioni dell'Unione Europea, le reazioni eccitate fuori di luogo di alcuni politici europei e di alcuni quotidiani stranieri. Senta, ma io le faccio solo una domanda e basta. Sì, mi dica. Ma se di fronte a un probabile governo di centrosinistra, di Vendola o di Bersani o di chi cazzo è, il dottor Schulz o l'equivalente di centrodestra avesse detto Schulz è un esponente del socialismo europeo, dunque è abbastanza comprensibile dica appunto, questo il famoso capò, l'equivalente di centrodestra di Schulz, no? Sì, sì. Se fosse stato lì al Parlamento europeo a dire temo per la stabilità dell'Italia se un comunista, un ex comunista... Vabbè, se Vendola, se Vendola... Se Vendola diventa presidente del Consiglio, sarebbe venuto giù il mondo il giorno dopo. Corriere della Sera, La Repubblica, tutti... Oh, attentato alla sovranità... Bah, Corriere della Sera non lo so, Corriere della Sera non lo so. Corriere della Sera non lo so, che sembra più di sinistra quello che La Repubblica ultimamente. Va bene, grazie, grazie. Ma come grazie? Grazie, grazie. Ma questo qui, vabbè, ma ognuno si esprime scimmia. Come si vuole esprimere, lascia perdere. A questo su. Qui gli piace, gli piace così, si eccita la parola Berlusconi, gli piace così a questo intellettuale. Chi è questo? Zagrebelsky, questo intellettuale che ha scritto, ci ha spiegato come funziona, ha fatto una lezione di diritto comparato con l'America spiegandoci come funziona. Delia da Perugia. Come si chiama quel genio, che gli devo dire una cosa, quel genio lì? Come si chiama quel genio? È uno quel di Roma, uno di Roma, Riccardo. Come si chiama? È ancora in linea, ecco. Riccardo? No, non Riccardo, c'è più. Riccardo genio dei pirla, aperta parentesi, chiusa parentesi, sappia che negli Stati Uniti uno con le accuse di Berlusconi si sarebbe dimesso ieri, non oggi, ieri. C'è anche una magistratura genio. Organizzata in maniera diversa. Genio della lampada. Delia da Perugia. Buonasera. Dica. Ascoltando anche queste telefonate mi convinco sempre più della mia idea. Le parole sono pesanti, le parole fanno male. Quelle della Lipizzetto sono le parole di una comica, di una che fa satira, e non mi fanno paura perché posso cambiare canale e posso sentire altro. Quando sento Berlusconi che si ritiene un conduttore e la gente lo seguirà perché lui è sincero, e sento una Biancofiore e sento persone... Ma come quelli fanno politica, la propaganda è fatta anche di queste cose, Bersani che va in aula a dire responsabili, di Bersani che dice rimbocchiamoci le maniche, di Bersani, ognuno poi ha il suo stile e le persone giudicheranno, ma la politica è fatta anche di propaganda e c'è propaganda dappertutto, ci sono parole a vuoto dappertutto. Ovviamente c'è chi ne pronuncia di meno, c'è chi ne pronuncia di più, c'è chi dice più cazzate, c'è chi dice meno cazzate. Parla perché hai un odore di Bersani e fare torto alla sua intelligenza. Non è corretto dire questo. E vabbè, ho capito, ognuno poi si assume la responsabilità. Io ho detto, da questo punto di vista sono dalla parte della Littizzetto al 100%, anche perché la Littizzetto si conosce, si sa, si conosce quello che è. Cioè, voglio dire, su Berlusconi non mi pare la prima volta che se ne esce in questo modo, no? Cioè, ora l'utilizzazione della parola cazzo è un problema. Ecco, no, ma è questo che mi spaventa, proprio perché non è la prima volta. Mi ricordo l'editto bulgaro, questo non è ancora arrivato in campo bulgaro. E già spara contro. Vabbè, ma non diciamo stupidaggine, l'editto bulgaro adesso, su, dai. Perfetto. Spero che siano stupidaggini. Spero. Lei spera, vabbè. Io spero, perché la propaganda è giusta, però la propaganda deve essere fatta in maniera corretta, perché non si possono dire cose che poi hanno ripercussioni a livello nazionale, a livello mondiale, vabbè. E che in ogni caso creano delle false aspettative. Grazie. Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola. Siamo qui 800 24 00 24, e con noi Daniela Santanchè. Buonasera. Che succede? Si è distrutta la linea, è esploso il telefono? È esploso il telefono, adesso la richiamiamo. È Tina da Milano. Tina, dica. Sì, buonasera dottor Cruciani. Io mi riferivo appunto a quello che è successo in questi giorni e soprattutto a quello che dice, che va dicendo Bersani, il gesto scellerato eccetera della destra eccetera eccetera. Mi sembra che l'unico gesto scellerato, non lo dico io anzi, ma lo dice un certo professor Zingales, che lei conoscerà benissimo, che il patto scellerato è quello che ha fatto lui con Vendola. Perché se dovessero andare al governo loro, allora sì, ne vedremo delle belle. Ma guardi, Vendola, quindi, secondo me avrà un ruolo talmente marginale, vedremo naturalmente dal tipo di candidatura eccetera nel governo, che poi vedremo, insomma, non mi pare di, la cosa non mi pare di particolare preoccupazione, almeno io non sono preoccupato, insomma. Se mi permette un'altra cosa. Allora? Pronto? Sì, dica. Sì, ecco, a proposito della Littizzetto, va benissimo, può dire quello che vuole, però io mi sono stufata di pagare il canone per sentirmi dire queste cose. Ma basta con questo discorso, ma che vuol dire? Ma qual è il problema della Littizzetto? Cosa ha fatto? Ma no, delle cose che dice sempre, per evidente, tendenziali in una maniera spaventosa, e per cui voglio dire, perché mai io devo pagare un canone? Cioè, smettiamolo, può dire quello che vuole, la televisione per me potrebbe anche non esistere, la smettono, la privatizzano, poi ognuno fa quello che vuole, perché manderò il mio canone da pagare alla Littizzetto. Tutto qua. Va bene, grazie. Giuseppe da Padova, buonasera. Giuseppe, dica. Io sono incazzato. Ma di cosa? Perché quando sento interventi dell'onorevole Verro, che dal 2005 è berlusconiano di ferro e dal 2005 non ha fatto niente per la gente, e dice, lasciando l'intervista, che bisogna parlare della gente, mi incazzo. Non ho capito, scusi Giuseppe, non ho capito bene. No, le spiego l'episodio. Sì, nel 2005, sì. Il 24 ottobre del 2005, lo ricordo bene perché era il giorno dopo della mia maratona, sì, di Venezia, sì, ho incontrato l'onorevole Verro presso la sede di Forza Italia. Sì. Come rappresentante dell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose. Vabbè, per parlare dei problemi delle famiglie con, sì, 4 e più figli. Sì. Dopo un'ora di incontro in cui ci ha ascoltato, sì, con attenzione, prendendo appunti, ci, sì, ha salutato e è uscito dalla stanza promettendoci mari e monti. Ah, vabbè. E a quel punto l'abbiamo guardato sul tavolo ed era rimasto il foglio degli appunti sopra il tavolo. Sì, e sopra questo foglio che cosa c'era? C'erano le nostre richieste, i problemi delle bollette delle famiglie. Vabbè, allora aveva dimenticato lì i foglietti. Sì, cioè, adesso dopo 7 anni torna fuori ancora con queste storie. Dopo 7 anni cosa hanno fatto al governo i berlusconiani? Vabbè, ma lasci perdere. Adesso Verro parlava di un'altra cosa. Verro parlava della questione della Littizzetto. Cosa diavolo c'entra adesso un suo incontro nel 2005 con Verro e a ottobre 2005? No, mi scusi Giuseppe, ma abbia pazienza. Cioè lei ci sta raccontando che i politici qualche volta se ne fregano delle cose che dicono gli elettori. Vabbè, può darsi, capita, succede spesso, in particolare in Italia. Capita, succede spesso. Noi diamo una delega ai politici perché ci rappresentino e facciano riforme. Lei probabilmente da quell'episodio non avrà mai più votato Verro, se mai l'ha votato prima. Non si pensi che ho votato Berlusconi per tutte le ultime elezioni, quindi sono stato... Ma lei poi doppiamente cretino allora, perché lei nel 2005 ha avuto questa esperienza con Verro e dopo ha votato ancora Berlusconi. Io ci ho creduto. Ah, sperato, bene, ma allora scusi, ma che vuole? Lei ha incontrato un esponente del PDL che ha lasciato i foglietti con le cose che avete scritto, poi ha votato Berlusconi nel 2006 e nel 2008. Ma insomma, ma di che stiamo parlando? Di cosa parliamo? Ma lei presenta le promesse. Ma ho capito, ma lei ha avuto la prova tangibile, secondo lei, naturalmente, di essere stato gabbato da un politico che ha incontrato e poi, nonostante questo, ha votato nel 2006 e nel 2008 la stessa persona. Vabbè, insomma. Ah, so cavoli vostri. Una roba da matti qua. Daniela Santacchè, buonasera. Buonasera a lei e a tutti. Eccoci qui. Allora, facciamo risentire subito la Littizzetto innanzitutto, la parola incriminata, le parole incriminate della Littizzetto. Abbiamo tirato la cinghia. Monti ci ha messo tutte ste supposte una per una come le cartucce della Cerbottana. Adesso torna Berlo, sale lo spread. Io non dico un pudore che è un sentimento antico, ma una pragmatica sensazione di aver rotto il cazzo. No, non c'è. Oh, secondo la Littizzetto, cara Santanchè, Berlusconi avrebbe rotto il cazzo. Questa è la realtà, cioè la realtà dei fatti. La realtà è questa. Come vogliamo rispondere alla signora Littizzetto? Ma no, dico, a parte il linguaggio, io non sono per niente sconvolta. Noi dobbiamo essere per molti, ma mica per tutti. Non possiamo mica essere anche per la Littizzetto. La Littizzetto sta dalla sua parte, sta con la Camusso, sta con Vendola, sta con Bersani. E va benissimo così. Io vabbè, ma fa satira. Una parola sulla Littizzetto. Fa satira. Ma va bene che faccia satira. La cosa non è che mi sconvolge particolarmente. Mi sembra che ne parliamo già un po' troppo. Lei una volta che cosa fece la Littizzetto? Non mi ma ricordo. Infatti quello che dovevo fare l'ho fatto. Lei fa satira, io faccio il resto e va bene così. Ognuno fa la propria parte in commedia, ma mi sembra che le diamo un'enfasi. Ma chi se ne frega della Littizzetto? E invece Boccassini, risentiamo pure Boccassini. Un altro passaggio incriminato. Boccassini, regia Boccassini. Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo? Partiamo con sta Boccassini? Via. Mi consenta di non credere a quello che ci viene prospettato, di non credere a quello che ci viene prospettato in udienza. Quindi questo è da interpretare come non volere e dilatare i tempi del processo per arrivare in campagna elettorale. Questo è quello che penso. Non è possibile. Sì. Allora, Alfano intanto avrebbe detto su Dell'Utri, un povero disgraziato che parla a ruota libera per l'intervista oggi a Repubblica, Parenzo, eh? Alfano su Dell'Utri, un povero disgraziato che parla a ruota libera. E dico solo questo. Cala, solo... cala. La Boccassini poteva pronunciare, secondo lei, quelle parole sulla campagna elettorale? Ma la Boccassini si è fatta al suo prezzo, scusi, finalmente è venuta fuori la sua appartenenza e lei, io non credo a quel tipo di giustizia, non credo a quel tipo di giustizia che vuole boicottare gli avversari politici, non credo a quella giustizia che prima fa l'arbitro, poi vuol fare il giocatore. Ma in questo caso è il pubblico ministero. È un pubblico ministero che ha una matrice ideologica, politica. Che matrice ha? Che è quella che l'anima nelle sue arringhe, quella che l'anima in processi che sono inesistenti, perché tutti i soldi che stanno spendendo gli italiani su questo processo qua, dove non c'è la vittima. Ma scusi, ma secondo lei vuole arrivare a una sentenza subito di condanna, cioè il più velocemente possibile prima delle elezioni? Ma se potesse, scusi, sono certa che darebbe l'ergastolo. Ah, se potesse l'ergastolo. Adesso vediamo come farà a dare l'ergastolo. No, però, l'ergastolo adesso... dire questo, ma no, l'ergastolo per dire che di cosa ci stiamo stupendo? No, gli ma italiani che ha sono detto... più furbi e più intelligenti di quello che pensiamo. A me dispiace, ma si erano dati la mano. Si erano dati la mano. È un potere dello Stato e dovrebbe essere, voglio dire... Sono la legge è uguale per tutti. Sappiamo che in certi tribunali la legge non è uguale. Ma si erano dati la mano con Berlusconi pure recentemente. Ma Berlusconi è un galantuomo, una persona educata che saluta tutti. Anche? Cioè, perfino i suoi... Saluta sicuramente tutte le signore. Ah, per questo diceva ecco. Dato la mano. Quindi mi sembra, non soltanto, però dando... cioè, voglio dire, parliamo di cose che sono scontate, ma... che gli italiani capiscono. Ma ha sentito Alfano su Dell'Utri? Molti dei guai del PDL derivano da soggetti come Dell'Utri, un povero disgraziato per quello che gli succede, che parla a ruota libera facendo capire che le sue parole siano di Berlusconi. Cioè è una cosa pazzesca questa cosa. Ma guarda che io trovo veramente questi intrighi di palazzo, queste guerre tra bande, ma parliamo dei problemi della gente, le famiglie, le imprese che non arrivano a fine mese. Ma dei problemi che abbiamo, che adesso la gente non prenderà le tredicesime perché deve pagare l'IMU. Dell'aumento della benzina, ma che me ne frega. Ma no, noi ci interessano gli intrighi di palazzo, a noi ci interessano gli intrighi. Guardi, mi interessano gli intrighi delle persone, intrighi delle necessità. A me di queste robe qua me ne frega meno che zero. Sono di un'altra pasta. Vabbè, ma anche lei interessano queste cose. Guarda, a me non interessa proprio per niente. No, interessa, ma non dico... stare da parte della gente. Parenzo, no, non ne posso più. Si vede che secondo me stare lì troppo a casa con l'ottimo direttore tutto il giorno. Ma che c'entra questo? Su, no, stare lì a casa là completamente. Oh. L'ha fatta, ma che ha detto di strano adesso? L'ha fatta diventare ancora più livorosa del solito la signora Santanchè. Perché livorosa? Esca, ma dove vedi il livore? Dove lo vedi il livore? Esca. Ma scusi, allora Santanchè, ma è vero questa cosa? Ma qual è la differenza, Parenzo? Che io esco la mattina molto presto, perché da fine mese devo pagare 104 stipendi, devo produrre il fatturato, e in questo momento le piccole e le medie imprese hanno così tante di quelle difficoltà. Non mi dica che lei è in difficoltà. Dica che lei è in difficoltà. Ma io oltretutto sono in un settore che è molto in difficoltà, che oggi bisogna lavorare tantissimo, perché quando abbiamo lasciato noi il governo la pressione fiscale era 45%. Beh, non mi dica, non mica starà piangendo miseria. Non pianga miseria. No, io non sono una che piango. Sei ancora in casa, Simo? Tu sei come una piccola zanzara che la notte mi consuma, mi rende isterico. Poi una carriera imprenditoriale che naturalmente mi porta ad essere considerato dagli italiani come un conducatore, una guida di cui fidarsi, ecco, e quindi io credo che sarebbe stato una mancanza mia di responsabilità se non mi fossi con grande sacrificio personale riproposto. Sei gelosa più di me, scappa. mi viene in mente la fissità di un teschio che vuole come dire, ribellarsi all'inevitabilità della morte. Quindi un fatto estetico, il primo suo giudizio è sì, di tipo... Io devo dire che quando lo vedo sento anche in televisione un raccapriccio tale e spengo, non posso proprio vederne c'è l'immagine. C'è molto poi nel libro anche del rapporto non con... Non posso vederne l'immagine, un po' mi fa pena, un po' mi fa repulsione. Ma cosa aveva detto Dell'Utri? Cosa aveva detto Dell'Utri per provocare questa reazione così forte da parte di Alfano, che dice è un povero disgraziato e Berlusconi deve stare attento alla composizione delle liste, perché insomma la gente giudica anche su quello, dice Alfano pochi minuti vedi fa. Che Dell'Utri aveva ci prova detto lui, vedi. In un'intervista a Repubblica. Ci prova, Alfano ci prova, aspetta, poi ci sono persone aspetta, come la Santa Chè che invece. Ma che ne sai di quello che pensa su questo? Lo allora... so perfettamente, la Santa Chè è contraria a prendere gli onesti, se no avrebbe detto qualcosa. Invece non mi pare di che nulla del no, Parenzo, lei non faccia il mio traduttore perché parlo io bene in italiano, voglio bene. Non ho bisogno che lei mi interpreti né che mi traduca. Allora, un attimo Dell'Utri, ma stai zitto un attimo, Dell'Utri è una persona brava e capace, ma non ha la maturità per aspirare al premierato, dice. La segreteria Alfano non è mai esistita, poveretto, non ha potuto cambiare niente, se siamo ridotti in questo stato è perché il partito è imploso, non si è rinnovato. Ma insomma, non è che abbia detto poi delle cose così clamorose. Scusi, secondo lei Dell'Utri si dovrebbe ricandidare? Candidare, onorevole Santa Chè. Io l'ho detto in maniera molto chiara. Io prima di parlare del partito degli onesti e di liste pulite voglio una magistratura onesta e dei magistrati puliti, perché vede, siccome Parenzo, che sa quello che penso di Parenzo, prima ironizzava, no, sulla questione Sallusti, dove sì. Proprio la rappresentazione plastica che esiste in Italia, una giustizia di parte, sì. Per cui ce l'abbiamo lì. E però io le ho chiesto su Dell'Utri, Dell'Utri va ricandidato o no? No? Ma guardi, io non faccio le liste, non mi interessa. No, per ma secondo lei è giusto che sia Dell'Utri, candidato? Dell'Utri sì. Non è un mafioso, Dell'Utri una persona colta, Dell'Utri voglio dire ha fatto nascere sì. Forza Italia. E dunque va ricandidato. Io questi giudizi sono i miei giudizi. E poi dunque Alfano sbaglia a dire un poveretto. Il partito degli onesti sin quando c'è una magistratura così. Vabbè. Non può, mi fa venire l'orticaria. Vabbè, ma dunque Alfano sbaglia a dare questo giudizio su Dell'Utri. Dunque. Alfano sbaglia a dare il giudizio nel senso che Alfano, che è un bravissimo segretario, si dovrebbe preoccupare moltissimo dei contenuti, dei programmi. Non può dire che Dell'Utri è un povero disgraziato. La nostra ricetta. Cioè rispetto ad Alfano, Dell'Utri è un gigante, questo è il punto. No, io trovo che povero disgraziato non si dice a nessuno, nessuno si dovrebbe dire nella nostra comunità, perché si ricordi che prima di essere una comunità politica sì. Dobbiamo essere una comunità umana. Però, e a me delle espressioni del genere non mi piacciono. Però mi d'accordo, politicamente, se uno va politicamente, adesso questo è chiaro, secondo lei Dell'Utri rispetto a Alfano è un gigante per quello che ha fatto, no? No, io non ho detto assolutamente no, ma io lo questo. Chiedo, io lo chiedo. Ho detto, voglio dire, ma mi sembra che Dell'Utri abbia fatto delle cose nella vita, che ha saputo fare. Non c'è molto, paragone con Alfano, dice lei, politicamente. Bene. Io non sono una che fa un'analisi comparativa. E vabbè, ma uno lo può dire. Però, no, questo, cioè, non si può permettere di parlare di Dell'Utri, questo voglio dire, politicamente. Non dico che nessuno di noi, nei confronti di un altro della stessa comunità, deve usare linguaggi di un certo tipo, perché io credo che il rispetto sia una cosa assolutamente importante. Una classe dirigente deve essere d'esempio e quindi deve saper parlare di una. Ma non se ne potrebbe uscire da questa storia di Sallusti, non se ne potrebbe uscire con una candidatura al Parlamento? Oggi se ne parlava da qualche parte. Secondo lei è impossibile questa cosa, oppure sarebbe una cosa buona e giusta la candidatura di Sallusti in Parlamento? Secondo lei uno come Sallusti, che ha la passione del giornalismo e, vabbè, e che tutto vuole fare. Ma guarda che nella vita ci sono anche uomini che hanno di fronte a sé ben presente che cos'è la dignità. No, ma ci sono tanti giornalisti che hanno fatto i politici poi che sono andati in Parlamento. Ma che me ne frega me degli altri? Cioè, vuol dire, ma non è mica la peste fare il parlamentare anche per... Cioè... Quello che forse non si è capito è che Sallusti non sta facendo la sua battaglia, sta facendo una battaglia molto importante per la libertà di stampa. Capisco che a voi della casta è una la cosa che vi sfugge. Siete una casta assolutamente. Ma no, ma si figuri. Ma scusi, voglio capire una cosa. Invece ho la fortuna di frequentare uomini un po' diversi. D'accordo, vabbè, noi siamo diversi da Sallusti, d'accordo, quanto però... È... Oddio, ma che te ne frega di quanto è un... questo. Quanto da appunto, perché a me i sentimenti è la cosa che mi piace di più. C'è una cosa bella della Santanché, che io conosco tanti anni e che adoro, è proprio questa sua passione. Quella passione a me, anche se dice delle cose per me aterranti, ma la sua passione, il suo cuore, ecco, allora tutti vorrebbero avere a fianco una donna come la Santanché, perché è una donna tu che lotta. Tu sicuramente. È una donna che lotta come una leonessa, è una donna che mette l'uomo su un piedistallo. Allora, ma che ne sai? Uomo. Quanto è uomo con i coglioni, Sallusti? Quanto ha i coglioni, Sallusti? Ha dimostrato quanto. Guardi, lei pensi a sé e immagini un Sallusti che è il suo opposto e il suo contrario. Così si è risposto. Il suo nanismo, capisce? Parliamo di nani e poi parliamo di giganti. Questo è lo spartiacqua tra lei e Sallusti. Guardi, che credo che non riesce neanche a arrivargli al pollice. Peraltro. Quando il sole della cultura è basso, anche i nani sembrano giganti. Ma sa il problema che lei si perde a guardare il dito e non vede la luna. Senta, però c'è anche Cicchitto. Anche Cicchitto ha parlato male il sole della cultura di altre persone. Sì, ho capito. Giganti. Però adesso io volevo chiedere un'altra cosa. Recentemente, nei confronti del suo amico Briatore, si sono accaniti un po' tutti. Per esempio, Cicchitto ha detto che l'albergatore di Berlusconi, semplicemente perché ha detto che quando vanno in televisione alcuni colonnelli, alcuni esponenti del PDL fanno perdere voti. E gli ha dato dell'albergatore di Berlusconi. Insomma, mi sembra questo Cicchitto un po' esagerato, no? Credo che il creatore, un altro, che ha dimostrato nella vita di aver fatto qualcosa, no? Ha vinto qualche gran premio mondiale di Formula 1, ha messo su un gruppo imprenditoriale. Cioè, rispetto a Cicchitto, dice non c'è che fattura parecchi milioni, ha molte persone che gli garantisce, voglio dire, un futuro che in questi giorni non è poco. Sai, io valuto le persone per il merito, per quello che hanno saputo creare nella vita. Cicchitto che ha fatto? Che è uno che ha fatto politica, che sicuramente cioè non ha fatto nulla, dice lei. La politica, ma io se chiede a me, io sono contro i professionisti della politica. Non cioè, se lei dovesse scegliere tra... Io guardi, se dovessi scegliere io, do una regola che vale per tutti. Chi non ha lavorato, lo sappiamo. Chi non ha persona. Chi non ha un reddito e non è in grado di mantenersi non può essere in Parlamento, perché non possiamo farlo mantenere. Sì. Però tra Cicchitto e Briatore, perché lui ha dato l'albergatore di Berlusconi a Briatore, lei... Cos'è, il portinaio? Io sto col merito, capisce? Per cui sto con Briatore. Ma no, perché Cicchitto... Sto con le persone nella vita che fanno. E invece quell'altro ha fatto io solo politica. Ma va benissimo, però non sono, come immagino io, la politica, non immaginandola come stipendio, ma con uno spirito di servizio a tempo, per cui sto con chi però nella vita lei che sa tutto, lei che sa tutto, ma questa ragazza che ormai da un po' di tempo a questa parte è accanto a Berlusconi, adesso per carità, va tutto bene, però lo vogliamo dire chiaramente che la fidanzata di Berlusconi è la signora Pascale? Ma non è che lo devo dire io, lo dice il Presidente. Cioè lo dice direttamente lui? Ma io dico, per me è una cosa bellissima, poi io non parlo, si figuri, delle cose mie, parlo di quelle... No, però lei ci sta dicendo, è vero, è la fidanzata di Berlusconi? Cioè, è la fidanzata... Io la conosco, sì, certo. Come la fidanzata? La fidanzata, che ne so? Qui non ci sono varie... Cioè Sallusti, vi siete incontrati qualche volta in quattro? Come Pascale. Madonna, ma perché buttate nel cesso il vostro tempo? Avete una radio a disposizione, ma parliamo di cose che interessano. Vabbè, ma noi alterniamo dei momenti... Ma io voglio dire, ma dei momenti ludici a dei momenti seriosi. Nicola, voglio dire, una persona come lei, ma insomma... No, ma non è... Ma in quattro ma sto dicendo a cena. Di quel senso a cena, ma che ha capito? A cena. Ma secondo lei, io vengo alla radio a parlare di questa roba ma qua. No, ma a cena. Ma diamo i numeri. Ma fate una trasmissione di gossip, invitate ma altri. anche, che c'entra? Bravi, e allora ma quando no. Parlate di gossip, ma non è gossip. Ma scusi, ma se lei ci ha appena detto che la Pascale è la fidanzata di Berlusconi, a me non io ho detto che per me è così, ma è punto, è finito. Non è che siamo qua a discutere 10 ma minuti. No, ma chi discute 10 minuti? Allora, ma secondo lei, grazie. Scusi, Santanché, ma secondo lei, il nano che parla, nano? La domanda al tipo, no, il nano che parla, la domanda alta, il nano, a parte che voglio dire, lei che mi dà del nano, non è che in casa PDL, a partire dal suo fondatore, siano dei giganti, cara signora Santanché. Questo però prende e porta a casa, questo qua prende e porta a casa. Devo già dire, c'è un'altezza. Capisco che anche Napoleone lei forse si vuol paragonare, però comunque lei poi ricorderà cosa dicevano attorno ai nani, quindi va bene. Oh, quindi questa, non questa è volgarissima, no. Questa no, è volgarissima. No. Quindi no, ma è dico giusta cosa dicevano... perché è il livello di Parenzo. Ciro Vita, dica Parenzo, faccia la domanda. Alta, non no, la questione, voglio dire, questo lei che parla appunto di altezze lì, non è che appunto, se no, siamo giganti lì dentro. Vabbè, comunque, dai, l'hai già detta questa. Ma l'abbiamo capito. Volevo tornare al punto, cioè questa grande storia d'amore che deve diventare la cifra italiana. E basta, dai, su. Sì, cioè, sì, ma non lasci dire che... Ma secondo lei la Boccassini è pronta a scendere in campo insieme a Ingroia De Magistris? Sarebbe un bel terzetto. Darei questo consiglio. Boccassini, sì, Ingroia De Magistris. Almeno vanno, scendono in campo e occupano un campo che poi tutti sanno qual è. Invece quando stanno lì... Se vogliono occupare, fanno il giocatore, l'arbitro è peggio. Ma l'ha vista? E decida di fare il giocatore. Il titolo di Liberazione di oggi è stupendo. Il titolo di Liberazione, il ritorno della mummia. Il ritorno della mummia con una foto di Berlusconi enorme. E io poi guardi, so solo una cosa, me la fa dire Cucciani. Come no? Dica che è da tre giorni che Berlusconi ha detto scendo in campo che non si parla d'altro, sono tutti terrorizzati. Lei gode, Parenzo tanto sino a ieri per lei era una caramella perché manco sapeva cos'era, quindi adesso non fatto stare da colto perché me l'ha offerta anche a me, pensava fosse una caramella frizzante di però a lei quest'area di battaglia piace, questo coalizzarsi di tutti contro Berlusconi le piace da morire. Guarda, questa... io lo trovo una cosa fantastica perché se queste elezioni saranno un referendum pro Berlusconi o pro Bersani, siccome io credo che la maggioranza degli italiani non voglia farsi fottere tanto alla Camusso, a Landini, a Vendola e a Bersani, e quindi grazie a Dio in Italia la maggioranza degli italiani è di buon senso e vedrà che anche stavolta la gioiosa macchina da guerra gliela rompiamo come si scioglie la neve al sole. Ah, gliela rompete? Le pare, e come gliela rompete? Ma le pare lei che gli italiani voteranno chi vuole maggiore spesa I sondaggi dicono questo. Ma sai i sondaggi. C'è tempo, dice lei, no? Maggiore c'è tempo. Spesa pubblica. Ma qualcuno, ma pare che Berlusconi voglia andare due ore in Rai come ha fatto il centro-sinistra con le primarie. Questo mi sembra un'esagerazione. Ma guardi, Berlusconi credo che in Italia nessuno sappia far meglio di Berlusconi una campagna elettorale. Faccia attenzione a pensare che gli altri, la gioiosa macchina da guerra, l'abbiamo già vista. Ma lei lo farebbe il ministro? Ma guardi, io se c'è una cosa che a me non mi interessa fare il ministro. Sono i ruoli, cioè nel senso. Ma si vuole candidare carità, o no? Si vuole candidare è un onore. O no? Vediamo quello che succede, vediamo. Io guardi, ho dimostrato che si fa politica in Parlamento, al governo, senza essere niente, capisce? L'importante è cercare di trovare soluzioni per questo paese che ha la frutta, che sta alla frutta, che adesso pagano l'IMU e non hanno più la tredicesima. Oh, ma in Germania hanno disegnato un cesso con la faccia di Berlusconi su Deutsche Zeitung, cioè, i tedeschi sono tremendi. Ma certamente per la Merkel è meglio parlare con i professori, con Monti, che oggi era sorridente, che le dice tutto che va bene. È un po' più difficile parlare con Berlusconi che le dice alla signora Merkel ma perché non si fa invitare a fare un duetto con la Littizzetto da Che Tempo Che Fa? Ci andrebbe volentieri a fare un bel duetto, sarebbe spettacolare. Ma io andrei domani mattina, la Littizzetto me la mangio a colazione. Grazie, a presto. E poi la digerisco anche senza prendere il Buscopan. Pensi come sono forte di stomaco. Vabbè, adesso lì c'è il nano che parla. Tormenta la mia notte. Nano? Sì. T'ha offeso, nano, c'è il nano che parla. Ma a me se mi danno del nano non mi offendo. Come, scusa? No, che se a me danno del nano non mi offendo, perché sono più alto di Berlusconi, peraltro, in termini di altezza, quindi non mi offendo. Ha offeso il suo ex presidente del consiglio, non me. Vabbè, adesso lì c'è il nano che parla. Riccardo Da Lucca, buonasera. È anche brutto, però devo dire, anche brunetta. Non mi pare che sia alto, altissimo. Ma che c'entra brunetta? Buonasera, Parenzo. Si chiedi un attimo, parla sempre, mamma mia. Vada, allora, io volevo intervenire riguardo al discorso di Emilio Fede. Cioè, trovo irriguardoso il fatto che lo fate sentire spesso, poi quella telefonata lì dove lui... Ma scusi, ma se si può sentire ovunque su YouTube è diventato una specie di cult, eccetera. YouTube perché l'avete mandata voi. Ma certo l'abbiamo mandata noi, è venuto da noi, è venuto. Ho capito, ma però continuare a prendere in giro una persona che tra l'altro... Ma scusi, ma lei lo capisce lo spirito di questa trasmissione o no? Ma lo spirito di questa trasmissione sarebbe anche l'ora che cambiasse un attimo. Ma quello secondo lei? Ma quello secondo lei? No, ma se fate il sondaggio, sicuramente la maggior parte... Ma quale sondaggio? Ma che me ne frega dei sondaggi? Cruciani, lei parla sempre sopra, poi ci si mette anche quell'altro là, Parenzo, che è sempre a fare le battutine, poi sempre da una certa parte politica. Facciamola finita, parliamo di un po' di cose serie, come ha detto la Sant'Anche. Ma parlerà lei di cose serie, scusi, Riccardo, parli di cose serie. Ma vada a sentire queste cose qui da un'altra parte. No, io le sento da voi. No, ma noi non ne parliamo, noi parliamo come ci pare, ha capito o no? Se le piace bene, altrimenti cambi canale. Ma no, io cambio canale, scelto quando voglio, cambio canale. Benissimo, allora. Allora posso anche però intervenire, giusto? Ma infatti la sto facendo intervenire, mica è un problema. Allora, no, io posso esprimere un'opinione. Sentire sempre ogni volta, ora perché ha detto bene la Sant'Anche, è entrato in campo Berlusconi, cioè ha detto che rientrerà in campo Berlusconi da tre giorni non si parla altro in Europa, cioè qualcosa ci sarà. Poi la battutina sempre di Parenzo e lo spread, che fino a ieri l'altro giustamente non sapeva neanche cos'era lo spread, perché si parla... Ascolta! Parenzo, mi dici il Bonde tedesco, me lo dici per favore? Me lo dici, per favore? Riccardo, non si sente bene. Mi occupavo di spread quando lei ancora portava i calzoni corti, caro Riccardo l'intellettuale, caro Riccardo. Riccardo, dica. Con rispetto. Con rispetto, Ternacchi le vai a fare a Vendola. Ha capito? Ma che Parenzo? C'entra Vendola adesso? Cosa c'entra? Ma poveretto, lascialo vivere, dai. No, poveretto chi? Poveretto. Prendete per il culo. Ma è un poveretto, ma lei non è che ragiona, flatulenta, lei non è che ragiona, lei flatula. Ma perché non Parenzo non prende un po' per il culo Vendola? Lussuria, ci penso io. Quando c'è da prendere per il culo Vendola, lo prendo per il culo, ma non è questo il tema, perché lei flatula, non discute. Male per il culo Vendola, ma lei non è che discute, lei flatula, io quando lei parla sento del cattivo odore. Sento cattivo odore quando lei argomenta. Parenzo, ascolti, ora non so se si può dire, perché siccome io sono abituato anche a parlare molto chiaramente, se sente il cattivo odore si sarà cagato addosso lei, Parenzo, capito? Sento cattivo odore. Parenzo, lei non capisce un cazzo, semplicemente, di niente. Lei parla a favore di una parte politica che la sostiene in continuazione, ed è facile essere di sinistra in questo paese qua. Tirate l'acqua, c'è cattivo odore, non si sente, è una cosa incredibile. Vabbè Riccardo, arrivederci, a risentirci. Rodolfo dalla provincia di Lucca, sempre da quelle parti, Rodolfo. Siamo attenti a Lucca, al tuo programma, Cruciani. In che senso, scusi? No, nel senso che ci teniamo, ci piace. Meno male. Salutami Parenzo. È qui, vada. Io... Allora, volevo fare un intervento, è già un po' che sono in linea, io ho ascoltato anche vari interventi degli ospiti, volevo fare una divagazione, siete capaci di tirar fuori il loro peggio quando li intervistate? Allora? E questo è un vostro merito. Vabbè, poi? E niente, un ringraziamento a Letizietto che è comunque sempre calzante nelle sue commenti, nelle sue esternazioni. E comunque ci vorrebbero 100.000 Boccassini, perché almeno si combatte un po' questa mala politica. E comunque io con la Boccassini, con la Boccassini, si combatte la mala politica con la Boccassini. Sì, con le politici che abbiamo a disposizione oggi. Il nostro panorama politico ci vuole solo la magistratura. E Dio voglia che c'è la magistratura, per ora non l'hanno ancora smantellata. Vabbè. No, io volevo intervenire però sul discorso della scesa in campo di Silvio. È un grande. Secondo me finalmente scende in campo, sì. E gli italiani lo manderanno a casa definitivamente. Cioè è meglio che torni in campo, così gli italiani lo bocceranno alle elezioni. Perché questa bocciatura, diciamo, tecnica, sì, lo teneva sempre un po' a galla, no? Così diceva, aleggiava il suo fantasma, mi hanno mandato a casa, ma quando ritornerò? Ora ritornerà e gli italiani gli diranno vai a casa. Vabbè, ma... grazie. Vittorio dalla provincia di Varese, buonasera. Buonasera a lei. Senta, Giuliano Ferrara qualche tempo fa aveva detto di lei, non so quanto sinceramente, che era una novità del giornalismo italiano, poi non ha più parlato, probabilmente ha capito di essersi sbagliato. E mi riferisco al fatto che tanta gente chiama lì, lo so che è una parola abusata adesso, parla di spread senza sapere minimamente. Io non ne ho proprio parlato, si figuri un po'. No, lei non ne ha parlato, però dal modo come sta dicendo stasera, perché io la seguo da sempre stasera. Ma io non ho proprio parlato, non ho pronunciato la parola spread, l'ha pronunciata Parenzo. Sì, però lei lavora in un giornale. Io non lavoro in nessun giornale, lavoro alla radio. Senta, è diverso. Perlomeno lei l'importanza dello spread la sa, siccome il giornalista è anche un educatore, è anche un consigliere. Ma l'educatore sarà lei. Lei sta facendo di tutto perché, col modo di tutto, nel suo piccolo fa quello che può. Stasera dà l'impressione di tirare la volata a Berlusconi. Io tirare la volata a Berlusconi, ma lei non ha capito. Sembrerebbe che le faccia piacere. Detto con tutto rispetto, lei non ha capito proprio un cazzo, caro Vittorio. Io lo dico molto chiaramente. Detto con tutto rispetto, lei non ha capito un cazzo. No, è presuntuoso, massimo presuntuoso. Ma non c'è nessuna presunzione. Io dico che semplicemente che lei non ha capito nulla. Se lei pensa che io tiri la volata a qualcuno, lei non ha capito nulla, niente. Zero assoluto, zero. Sa significa lo zero? Lo zero assoluto. Ma non c'è niente di male a non capire lo zero. Ogni tanto può capitare, anche ai geni come lei, Vittorio da provincia di Varese, può capitare di non capire una cosa. Lei non ha capito nulla, e pazienza. È rimasto in linea? Ma che sta facendo questo genio? Che sta facendo questo genio della provincia di Varese? Sta rottando col telefono. Ma che ne so, che rottando col telefono? Sta rottando col suo cervello. Per capire come funziona la cornetta. No, il cervello secondo me sta... Ha abbassato adesso. 800 24 00 24. Sta cercando di capire qual è la parte dove sta. Che domani a te vedere e torna. Mariano Picelle è con noi, buonasera. Buonasera, buonasera. Come stai, tutti, caro? Come stai? Bene, bene, non male, non mi lamento. Parenzo, hai capito che ti ho portato stasera? Abbiamo rispolverato tutti gli arnesi del berlusconismo, molto bene. Allora, Apicella, io voglio... i migliori arnesi del berlusconismo. Voglio capire una cosa, ma lei è felice... Ma lei sento un po' un arnese del berlusconismo, no? Ma che? Ma da dove sei collegato, diavolo, di un Parenzo? Che bella canzone, torna, sta casa aspetta te. Beh, si può applicare pure a Berlusconi, o no? Assolutamente sì, per questo dicevo che bella canzone. Cioè, mi spieghi, cioè lei che canzone vorrebbe dedicare al Berlusconi che torna a candidarsi a Palazzo Chigi? Guardi, io è l'unica canzone che avrei scelto. Ah, questa qua. Torna, torna, sta casa aspetta te, torna, che smaniete vedere. Bella. E poi come fa? Bella, insomma. Torna, torna, torna. Casi ci torna tu, non ce la stiamo più. O quantomeno non soffriamo più. Beh, siamo al top. Scusi, Apicella, scusi un attimo, ma torna a Palazzo Chigi, dice lei. Ma certamente. Ah, ma... cioè, così ci divertiamo tutti. Mettiamo una base sotto, così la facciamo cantare bene. Cioè, la canzone che Apicella dedica a Berlusconi per questa sua ennesima candidatura a Palazzo Chigi è questa. Mettiamo, iniziamo. No, basso, più basso, più basso. Vada. Da casa aspettati, torna. Torna, che smania torna, torna, torna, casi ci torna tu, non ce la stiamo più. Beh, ma di chi è la canzone, l'originale, Apicella? Ma guardi, l'hanno incisa in tantissime, anche il grande Claudio Villa l'ha incisa, per cui è stato un successo un po' di tutti i personaggi. Ma Berlusconi l'ha mai cantata con lei questa canzone? Sì, io l'ho cantata un sacco di volte. Anche con Berlusconi? Sì, anche durante qualche cena di Berlusconi, sì, perché no? Fa parte del mio repertorio, ovviamente non la faccio così alta come questo magnifico tenore, perché io non sono un tenore, però la faccio nella mia tonalità. Però prima ho sentito qualche acuto, no? Sì, insomma, me la cavicchio ancora. Beh, ma lei nonostante tutte le lesioni che porto. Lei quanto spera che Berlusconi torni a Palazzo Chigi? Ma guardi, io spero al più presto, così come tantissimi italiani. Non ho nulla contro la persona Monti, è una persona per benissimo, per amor di Dio. Però, diciamo che gli italiani, dai, non sono tanto contenti. No, certo. Per cui ci vuole Berlusconi a Palazzo Chigi, dice lei, no? Ci vuole Berlusconi, per me prima di tutto, perché lo conosco, è un mio amico, so come si comporta, so che persona è, ci vuole Berlusconi. Sì. Magari per qualcun altro ci vorrà qualcun altro. Beh, però. Bersani, per esempio, Bersani a Palazzo Chigi, che effetto le fa a lei, Picella? Vedo meglio Berlusconi, onestamente. Vabbè, questo mi pare. Però guardi, ciò non toglie che a me Bersani mi è molto simpatico, è una persona proprio elegante, educata, per cui non ho niente da dire contro Bersani, assolutamente. Però è un altro passo. Quantomeno non avrei niente da dire di male. Però è un altro passo, la Berlusconi ovviamente è un altro passo. No? Io ci vedrei meglio Berlusconi. Comunque Dell'Utri, povero disgraziato, Alfano oggi veramente si è scatenato oggi, Alfano. Torniamo tra un attimo. Sentivo al TG7 di Mentana, poc'anzi, però visto. Non ho capito bene. Gli alieni sono qui, le prove nella valigetta nucleare, lo dice il premier russo Dmitry Medvedev. Quella cartella contiene informazioni sugli alieni che hanno visitato il nostro pianeta. Mario Borghezio, il massimo conoscitore in Europa del fenomeno degli UFO. Loro ci spiano, temono l'arma atomica terrestre. Abbiamo una documentazione scientifica notevole, ci sono le prove di veicoli extraterrestri, se ci sono i veicoli, ci deve essere pure qualcuno dentro. So per certo che ci spiano, ci tengono sotto controllo, ci temono, gli alieni hanno paura dell'uso che possiamo fare del nucleare. Le superpotenze hanno, nella fattispecie, le superpotenze spaziali, Stati Uniti e ex Unione Sovietica, oggi Russia in particolare, abbiano tenuto nascosto, e anche le grandi organizzazioni militari come la NATO abbiano tenuto nascosto o quantomeno riservato ogni riferimento e ogni notizia riguardante apparizioni di oggetti non identificati. Un nuovo mistero aleggia sull'Europa. Borghezio, Medvedev e altri alleati contro gli alieni. Se volete unirvi anche voi a questa battaglia, sapete dove trovarci, qui alla Zanzara. Mandateci le vostre mail a zanzara@radio24.it. Anche noi siamo preoccupati per gli UFO. Parenzo se la sta facendo sotto, credo, no? Ma che preoccupati per gli UFO? Ma sei mai bevuto anche tu stasera? Gli UFO? Ma hai sentito una cosa seria? Il premier russo, Mario Borghezio al Parlamento Europeo, un deputato che sentiremo tra poco. Cioè, sono cose gravissime, gli alieni sono tra noi. Ma come gli alieni? Ma qui, ma ti sta crollando. Ma ti assicuro che gli alieni sono tra noi. C'è lo spread a 3,30 e tu parli degli alieni tra noi, ma... Apicella? Gli alieni siamo noi, caro Cruciali. Hai capito? Anche Apicella è sano di mente. Io però voglio capire da lei una cosa, Apicella. Quanto ha voglia di cantare di nuovo a Palazzo Chigi per Berlusconi? Di fare... No, ma guardi, a Palazzo Chigi lei non ha mai cantato, d'accordo? Non ha mai cantato. Bravo. No, vabbè, Palazzo questo Chigi qua. Non mai cantato. Però quanto ha voglia di... come dire, no, di tornare con Berlusconi presidente del Consiglio a cantare per lui. Quando è l'ultima volta che l'ha visto innanzitutto? Guardi, per me professionalmente è sempre la stessa cosa. È d'accordo. Perché, ci metto l'impegno sia quando non è presidente che quando ma per è esempio ogni anno lei Berlusconi quanti soldi le dà per cantare? No, ma professionalmente, sempre rapporto professionale sto parlando, così per fare una... Io ho uno stipendio da Berlusconi, il quale non rilevo neanche se lei mi fa le torture cinesi. Eh no, però questo è interessante, perché le oggettine da 2500 euro. Vabbè, ma quelle sono le oggettine, io fino a prova contraria sono nato con la chitarra in mano, spero di essere un po' diverso, no? Ah, cioè guadagna di più delle oggettine, voglio sperare per lei. No, dico anche professionalmente, no! Spero di essere un po' diverso, una mia professione. Cioè, dico. In che senso? E quelle sono mignotte, dice lei, no? No, assolutamente no, io non mi faccio dire cose. No, che non domanda, punto di domanda era, non era... Cioè, che vuole dire? Che lei ha una professionalità, invece quelle là che fanno? Ma non lo so che fanno, sono fatti loro, non lo so, ognuna di loro avrà un lavoro sicuramente, sennò come... Ma insomma, però scusi, adesso lei mi ha fatto venire la curiosità, Apicella, quant'è il suo stipendio? No, ma non è il fatto che lei mi fa un confronto con le oggettine. No, no, ma mica perché volevo. Ma perché non sono mica delle assolutamente no, ma facciamo sicuramente due mestieri diversi. Beh, diciamo, loro allietano Berlusconi in un certo modo, e lei, che ha un rapporto diverso, per carità, lo allieta in un altro modo. Voglio dire, alla fine. Si arriva sempre io non lo so come se lo allietano, però no, ma in tutti i modi noi con lui si allieta molto di più con la musica quando ci siamo noi, questo è poco ma sicuro. Cioè si allieta molto di più con la musica che con le oggettine, dice lei? Sì, perché lui ama molto la musica, per cui si diverte tantissimo quando sente cantare, quindi meglio io delle oggettine, possiamo dire. Ma le oggettine quelle che abitavano all'oggettina, intende lei? No, no, ma sì, quelle ragazze che vanno alle feste in quel insomma, ecco, l'occhio del cavaliere. Le feste non è che su prima di tutto ogni festa sono invitate le ragazze. Ma no, ma io non sto dicendo, non sto facendo nessun tipo di speculazione, non sto facendo nessun tipo di allusione. Cioè, io volevo dire, la differenza è questa: quando io vado a casa di Berlusconi vado per lavorare, mentre lei, qualche ragazza che è stata invitata è venuta soltanto per essere invitata a cena, tutto qui. Non è che doveva lavorare. Altre però prendono prendono uno stipendio. Ma che prendano uno stipendio, io sono contento per loro. 2005, l'hanno detto, 2005. Io vorrei capire, però adesso io sono curioso, Vicelli, io lo sa che rapporto è certo, che tra me e lei di grande correttezza. Lei ha detto, io ho uno stipendio dal cavaliere, però siccome viviamo in un mondo di grande... Non è che l'ho detto io, lo sanno tutti, già dal primo anno che ho conosciuto Berlusconi, lo sanno tutti. No, ma io non lo sapevo, sarò ignorante, eccetera. Io pensavo che lei ogni volta... Ma quanto ammonta? Più o meno. No, guardi, glielo ripeto, signor Parenzo, io non lo dico neanche sotto tortura. Vabbè, ma non c'è niente, qui viviamo nella trasparenza più totale, una casa di vetro questa qua. Cioè, stiamo parlando di una cifra superiore... Se io lo chiedessi lei quanto guadagna all'anno, me lo direi. Ma io glielo dirò, io guadagno intorno alle... Che ne so, quanto guadagni adesso? Parenzo, quanto guadagno io? Tu guadagnerò in tutto, quell'anno scorso quanto ho guadagnato? 200.000 euro. 200.000 l'anno scorso, 200.000 euro. Se avessi guadagnato in un anno della mia vita quanto ha guadagnato lei l'anno scorso, forse non farei più questo mestiere. Vabbè, d'accordo, ma Berlusconi alla fine 100.000 euro l'anno glieli dà o no? Ma sì. Ma no, ma scherza, io ho uno 40.000. Decoroso, ma uno stipendio normale. Che ne so, siamo siamo sui 4.000 lordi. Ma guardi che non è sbagliato dirlo. Ma un'altra domanda. No, no, ma scusi, abbia pazienza. Lei allora scusi. Vicella, guardi che signor Parenzo, mi pare una cosa normale. Allora, guardi, non glielo dico mai. Perché dice professionalmente non si può dire. Io non ritengo, prima di tutto gli italiani non se ne fregano nulla. Beh, di quando Berlusconi mi paga all'anno, insomma, non penso che possa interessare alle persone. Più di questa cifra che è girata per l'oggettino 2500, sì o no? Beh, sì, ma non saprei. Guardi che non c'è niente di male a dirlo. Ma non c'è nessun mistero, è una cosa meravigliosa, perché anche i grandi, le voglio dire questo, caro Apicella, anche i grandi della musica classica del tempo avevano dei mecenati dietro che pagavano per le composizioni. Ad esempio, il grande Mozart, lei dovrebbe paragonarsi a Mozart oppure a Johann Sebastian Bach. No, ma voglio dire... assolutamente no, ma guardi, siamo proprio... No, lei per me è il Bach del cavaliere. Però non penso che Mozart diceva alle persone quando guadagnava. Ma come no, come no. Ma come sì. No. comunque, guarda, è evidente che fa comodo avere uno stipendio fisso, comunque, mi sembra chiaro. Guardi, io le dico soltanto una cosa. Ma la tredicesima c'è almeno? Dei famosi, sì. Ho pagato più della metà di tasse. Per più, cui più della metà quello di tasse. Vabbè, quello che c'è, l'isola dei famosi, no, mica gli ha dati Berlusconi, gli ha dati la RAI i soldi, l'isola dei famosi, diversi. Sì, lo so. No, no, neanche la RAI, la Magnolia, vabbè, ma insomma quello che è. Ma c'è la tredicesima? Però o no? Voglio dire, cioè io pago le mie tasse, sto ma scusi, ma come devo dire alle persone quanto guadagno? Ma sto stipendio, no, ma che c'entra? Quello io voglio sapere solo quello che prende da Berlusconi, il resto avrà altre entrate pure oltre a quello, no? Immagino, cioè non è che c'è una sola. Faccio pure serate, esatto, pure bravo. Qualche ma infatti, volta che capita televisione. Io non voglio sapere il suo reddito, io voglio sapere da Berlusconi al mese quanti soldi prende. Non glielo posso dire. Ma come non me lo può dire? Certo che me lo può dire. Veramente non glielo posso dire. Ma non c'è niente di strano, non c'è niente di male. No, ma non mi sembra il caso, visto anche un po' l'aria che tira. Ma che aria che tira? Che tira una trasmissione sulla 7. Parliamo di altre cose, mi trova meglio su altri domande. No, ma io vorrei meno di 100.000 all'anno. Molto meno. Molto meno, 50. Vabbè, fermiamoci qua adesso. Vabbè. Apicella, scusi un attimo, ma è vero o no? Lo stipendio di Apicella, aiutiamolo a ricontrattarlo, scusa. No. Lo minacci, dica cavaliere, se lei non mi dà un piccolo aiutino in più. Ma non può rivelare. Non può rivelare io nulla, non chiudo la canzone, non ci sono più le strofe, come no, fai? Guardi, allora io l'ho già dato l'aiutino, il signor Cruciani mi parlava di 100.000 all'anno, io ho detto molto meno. Basta, no, ma noi l'aiutiamo a ricontrattare col cavaliere il suo salario. Comunque, vabbè, Alfano dell'Utri, disgraziato, sei senza palle, la polemica del secolo. Ma perché che non ho sentito bene? Ho degli ospiti a casa, si parlava. Ma guardi, Apicella ha fatto un'intervista oggi dell'Utri su Repubblica dicendo delle cose di Alfano. Insomma, un segretario che ha fallito. Però questa parola sei senza palle, non so se è di oggi o di ieri. Comunque, insomma, la risposta di Alfano è stata disgraziata. È un disgraziato che parla per bocca di Berlusconi, anche se spesso non parla. Berlusconi non sa nemmeno che cosa dice. E insomma, non si dovrebbe ricandidare. Questa è in sostanza la cosa. Ha capito? Cioè, Dell'Utri pensa che lui sia inadeguato come. È una come segretario. Poi magari sotto Natale si farà la pace. Dice lei. Ma scusi, ma lei sa qualcosa? Ma questa signora che sta sempre accanto a Berlusconi, la fidanzata ufficiale, questa Francesca Pascale? Ma Francesca Pascale è la fidanzata di Berlusconi, lo sanno tutti. Ah, è chiaro. È ufficiale la cosa. Sì. Bello, bella coppia mi sembra, no? Veramente una bella coppia. Stanno bene insieme, lei è contentissima. Sì. Per cui... un po' c'è una differenza di età piuttosto clamorosa, No! Vabbè, ma lei sa che l'amore non ha età. L'amore non ha età, No. Berlusconi è molto innamorato? Berlusconi è molto innamorato? Il mio papà si sposò una seconda volta a 46 anni con una ragazza di 22 anni, per cui... però 46-22 è un altro discorso, Qui siamo nel campo di 24 anni. Potrebbe essere la figlia, Credo che potrebbe essere la figlia, signora Pascale, Sì, vabbè, ma anche la seconda moglie del mio papà poteva essere sua figlia, per cui... Cioè, a 27 anni, a 27 anni la signora Pascale, Berlusconi 75, sì, 27 76, anni, beh, insomma, siamo quasi, vabbè, quasi sui 50 anni di differenza, L'amore non ha età, per cui quando si è innamorati... Cioè, anche mezzo secolo di differenza va bene, dice lei? Secondo me sì, assolutamente. Anche mezzo secolo va bene, ma Berlusconi... Ma perché dovrebbero farlo le grandi star americane, per esempio? Io mi ricordo che Anthony Quinn ebbe un figlio a 82 anni con una ragazza di 30 anni. E non Berlusconi, dice. Ecco, perché quando succede a loro non si dice niente, quando succede a Berlusconi... No, ma io, per carità, io per me è tanto di cappello. Anche, guardi, ma così come anche succede qualcosa a noi che stiamo vicino a Berlusconi, di riflesso ci massacrano. Ma scusi un attimo... Scusi, no, Apicella, voglio capire, ma Berlusconi è molto innamorato, secondo lei? Guardi, non mi chieda... No, quando li vede insieme, quando li vede... Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. No, ma dico, li vede mai tubare? Ma sì. No, guardi, io non lo vedo. Ma secondo lei è pronto a un nuovo matrimonio? Poi tuba per fatti suoi quando sei da solo, davanti a me. È pronto a un nuovo matrimonio, secondo lei? No, penso di no. No, matrimonio no, matrimonio no. Però penso un figlio ci potrebbe stare, Se se la sentono loro, perché no? Perché no? Allora la prossima volta che io ho il piacere di incontrarlo, gli dico: presidente, ha detto il signor Cruciani. Perché non fa presto? Prima delle elezioni, magari, no? prima delle elezioni. Siamo come lei, siamo come lei. Roberto dalla provincia di Bergamo, sempre più prove, caro Parenzo, Beh, ormai perché devono negarlo, scusa. Allora, Roberto. No, cioè, voglio dire, ricordiamo agli ascoltatori. Sì, la sentiamo, che quella foto meravigliosa. Volevo fare una domanda. Sì. Ma perché c'è così tanta paura di Berlusconi, del ritorno? E chi ha paura di Berlusconi? Politicamente io lo ritengo abbastanza finito. Per inerzia riuscirà ad arrivare un 5-10% lì, a mio parere. Ma dico, perché tutta questa paura? C'è questo attacco concentrico che è stata nel passato un'arma vincente di Berlusconi. No, ma lei su questo, lei però su questo ha perfettamente ragione, secondo me. Più attaccavano, più lui vinceva. Tra l'altro, questa storia della responsabilità, no? Cioè, questa storia della responsabilità per aver accelerato la chiusura dell'esperienza Monti. Io non sono così, non sono mica così d'accordo sul fatto che Bersani non sia strafelice di questa cosa qui. Cioè, e poi, che significa la responsabilità? Ricordiamo i fatti: a un certo punto, giovedì o venerdì. Credo venerdì, Monti dice: ho parlato con Napolitano, ci vuole una chiusura non traumatica della legislatura, dice Napolitano, eccetera eccetera. Sabato Monti accelera all'improvviso, almeno per quello che sappiamo, accelera la crisi e dice: non posso più restare dopo le parole di Alfano. Beh, insomma, voglio dire, perché non poteva restare? Io sono convinto che il capo di un governo tecnico debba subire, possa subire anche una campagna contro il suo governo, che è un governo non eletto dagli italiani, da parte di un capo di un partito politico che lo appoggia. Ma la crisi conviene a Monti? Cioè, se Monti vuole avere qualche chance per tornare a fare il famoso Monti bis, lui deve dimostrare in questi mesi che lo spread va alle stelle, che la politica estera europea, che l'Europa lo preme per la paura del ritorno di Berlusconi. Quindi è tutto un vantaggio anche di Monti, in verità. Per non farsi rosolare, certo, con gli ultimi provvedimenti impopolari del governo, cioè in questo caso i provvedimenti impopolari del governo passano in secondo piano, l'attenzione è tutta sul ritorno di Berlusconi, il signor Monti tranquillo, il senatore lì buono che dice sì, vedete, volete il mio ritorno, adesso forse mi rendo disponibile quando i mercati impazzano, le borse crollano. Questo succede, è contento anche Monti, il primo a godere, anche Monti, secondo me. Elisa da Roma, grazie Roberto. Elisa da Roma. Pronto? Dica. Pronto, senta, mi fai dire tre cose. Beh, adesso tre, non lo so perché. Perché io sono emotiva, poi mi impappino. Ci sono 2 minuti e mezzo, però, deve essere molto rapida. Ecco, va bene. Allora, volevo dire: uno, io pensavo che Berlusconi, diciamo così, fosse finito. Ero berlusconiana, ultimamente ho votato per Renzi alle primarie, però non è riuscito, quindi avevo deciso di non votare più. Oh, ma lo sai che questa campagna contro Berlusconi mi sta facendo venire la voglia di ridare il voto? Ma non sono la sola, Ma la campagna, lei che dice? I politici che parlano di responsabilità, i giornali stranieri, la questione dello spread, insomma, eccetera, eccetera. La Boccassini, eccetera. Noi siamo italiani, siamo particolari, siamo diversi, no? Oh no, poi vorrei dire un'altra cosa, la seconda. Come mai tutti quelli che volevano vedere cadere il governo Monti adesso non esultano? Cominciando da Di Pietro, cominciando da Vendola, cominciando da quelli di sinistra, da quelli di destra. Come mai nessuno si fa vivo? Vedi come sono vigliacchi gli italiani, gli uomini politici italiani? Due, poi la terza. Ma io mi vergogno veramente di vivere in questo paese per la procura di Milano. Perché? Ma com'è possibile che quella baldracca della... No, della cara Elisa, ma che vuol dire baldracca? Su, ma non si può, non si possono dire queste cose gratuitamente. Ma un uomo perché è andato a donne, ammesso che ci sia andato. Ma quella è un'altra cosa che riguarda il processo. Sono un processo e condannare un uomo per istigazione alla prostituzione. Ma proprio Berlusconi volete condannare. Va bene, grazie Elisa. Marina da Roma, buonasera. Ma come grazie? Ma come si permette sta pazza? Marina da Roma. Buonasera. Dica. Spero di conservare la calma, poi ho poco tempo, quindi la devo conservare. Perché dovrebbe essere agitata? No, guardi, perché sono agitatissima, perché sono italiana, perché sono disgustata. Perché è agitatissima? Poi quando sento la Santa anche, sinceramente, guardi. Si arrabbia ancora di più, Male, non la sopporto. È una donna che non rappresenta nessuno se non gli abitini che porta e quindi la stilista degli abitini che Ma lei che ne sa degli abitini? Noi. Che dice? Ma non penso che gli facciamo comprare noi gli abitini. Ma beh, guardi, senta, la Santanchè veramente è una persona che deve stare soltanto zitta, ci deve stare da qualche parte, non rinchiudere da qualche parte. Una poi... che difende Dell'Utri, cioè Dell'Utri che è stato condannato a 9 anni, lo sappiamo tutti. Poi che vada avanti. E poi, no, voglio dire che io mi auguro che tutte le persone che hanno, sì, come dire, intelletto, non vengano conquistate di nuovo da chi? Da quel delinquente di Berlusconi. Benissimo, grazie. Claudio D'Agrigento, velocemente, dobbiamo chiudere, 30 secondi massimo. Mi senti? Sì, dica. Ah, io parlavo per le... Perché? Come si dice? Quelle cose fuori orario che non si dovrebbero dire. Ma che ne so? Fascia protetta, cazzo, minchia, forse fascia protetta. Ah, la fascia protetta. Ma qui non c'è fascia protetta. Ah, no, da voi no. No, no, no, no, no, no, non la conosciamo noi la fascia protetta. Non sappiamo, non so manco che significa. Che significa fascia protetta? Ci sentiamo domani 18:30, ciao. Ciao. Vabbè, adesso lì c'è il nano che parla. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ah, so cavoli vostri. Radio 24. La passione si sente. Giorgio Fedò 1919, regali indimenticabili. Vi ha presentato La Zanzara.